Ponte Radio. Una trasmissione costruita collettivamente da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15 in simultanea su Wombat, Onda Rossa, Neanderthal, Eustachio, Quar, Blackout, Spore. Benvenuti e benvenuti Ponte Radio, questa è Radio Wombat, oggi sta a noi prendere la staffetta, raccogliere il testimone del Ponte Radio. Avete sentito la nostra nuova sigla? Sì, una sigla davvero condivisa, diffusa. Appena volta abbiamo smesso di dire che eravamo quattro radio, quando ne siamo sette da circa non so più quanti mesi. Quindi sì, io ho questa voce splendida, un po' così dall'oltretomba, ma è il bello dell'inverno, perdonatemi. Vabbè, dai, oggi non sei sola, quindi cercherò di supportarti con la mia. Esatto. C'è anche un bel riverbero e eco che non so da dove arriva. Vabbè, sono in versione papa oggi, via, dopo sistemo. Allora, oggi Ponte Radio, il tema è libero. E quindi, siccome è libero, ci siamo abbastanza prese la libertà, giustamente, di spaziare. E quindi usciamo un po' dal seminato, forse, dei Ponti Radio a cui vi abbiamo un po' abituato, perché spesso e volentieri vi abbiamo parlato di attualità, ecco, in effetti, di più o meno di fatti che stavano succedendo in questo momento e magari nei nostri territori come venivano accolti, cosa succedeva. Ora non ci allontaniamo di troppo, ma vi parliamo un po' di delle questioni storiche, perché faremo un approfondimento oggi nello spazio hanno riservato del Ponte Radio sulle radio resistenti. Una puntata che ha un titolo, che è Belli Radio, e questo titolo è proprio un po' il titolo della nostra ricerca, che confessiamo non siete le prime persone a cui raccontiamo, infatti ormai la sappiamo un po' a memoria, perché questa ricerca nasce in realtà per essere portata a Onde Riflesse, sbaglio, era la prima volta. Probabilmente sì, però in ogni caso nasce, comunque sia legata alla spinta, invece questa sì, territoriale, di Radio Cora, e quindi di ricercare ciò che erano state le esperienze radiofoniche in contesti appunto del Novecento, la Seconda Guerra Mondiale, in contesti resistenti. Poi ovviamente in questa ricerca ci siamo fatte prendere la mano, va da sé, esatto. Abbiamo cercato di contestualizzare e estendere quello che è stato l'utilizzo della radio un po' in tutto il contesto di guerra, quindi Belli Radio, il titolo della presentazione. Però sì, il movente è rimasto e resta quello delle radio resistenti durante la Seconda Guerra Mondiale. Esatto, prima accennavi a Radio Cora. Radio Cora, ne parleremo poi meglio approfonditamente, era una radio fiorentina che attiva durante la clandestina, ma clandestina per davvero, nel senso che rischiavano le penne e ce l'hanno anche lasciate, durante la resistenza, durante la liberazione di Firenze. Ha avuto un ruolo molto importante, lo vedremo. Perché Radio Cora? Perché a Firenze è piuttosto sentita, e noi di Radio Wombat ci teniamo parecchio, ci sentiamo, come dire, in debito anche, se vogliamo, con Radio Cora, e ogni anno andiamo a festeggiare, no direi, però a celebrare l'anniversario dell'eccidio di Radio Cora. Dopo vi racconteremo bene i terribili fatti che portarono all'uccisione di quasi tutti i componenti di Radio Cora. Eh sì, come dicevi prima, in effetti abbiamo portato questa presentazione sicuramente qua a Firenze più volte, ma anche all'ultimo Onde Riflesse a Napoli e appunto oggi qua al Ponte Radio, e ci teniamo sempre a chiarire come quello di cui parleremo oggi è frutto di una ricerca propriamente dal basso, fatta quindi con metodi e mezzi limitati, ma mossi da un'onestissima curiosità e affetto verso la radio e compagni che l'hanno usato anche per fare cose fighe nel passato, ecco. Esatto. Oh, finalmente sono riuscita a trovare questo effetto che avevo. Ora sono molto più tranquilla. Non Ok. c'ho più A l'effetto chiesa. proposito di... Sì, esatto, cattedrale. Sì, era per darmi un tono che avevo messo questo effetto chiesa. E, sì, quindi anche per questo, giustamente un disclaimer che facevi bene a fare, anche perché perdonerete i nostri eventuali sfondoni. Ci siamo approcciate a questo tema con una passione genuinamente nerd. A un certo punto può darsi che ci lasceremo andare a commenti entusiasti che riguardano dei particolari di cui non interessa a nessuno. Tipo, non lo so, quella bobina No, meravigliosa. oggi sì, seguirete questo Sì. viaggio sì, che Sì. Sì, stiamo per iniziare. quindi direi iniziamo subito con prendendocela con calma, con un po' di musica, in modo che riscaldiamo i microfoni e poi continuiamo con il Ponte Radio di oggi. Hey! And when there is none, the missing amount is sitting on one foot in the ground. That's on the boys and signal and the noise. Read the land, but miss the meaning. Wide awake, but still you're dreaming. Drown out your inner voice. The signal and the noise. Pretend they got something for ya, but really they got nothing for ya. Shut up the bluff, we're coming to see ya. Take the cup, we're coming to eat ya. I jam it, I push it until you're smashing it. I jam it, I push it until you're damaging it. Slowly but surely, the signal will just. Hey, hey. Signal and the noise. Oh, yeah. Oh, oh. Signal and the noise. Correlation is confusion, statistical illusion. Talking to the blue in the face, the gun without a trace. Is it a hurricane or freeze, earthquake or tsunami? The blue and the poor, the toys, the signal and the noise. We'll chat, they might have something on ya. Spin it around the number cruncher. Cut the crap, see how we're testing ya. I jam it, I push it, until you're smashing it. I jam it, I push it, until you're damaging it. Slowly but surely, the signal is drifting away. Hey, hey, hey. Eccoci, un saluto quindi dunque alle altre radio che ci stanno ascoltando, Radio Wombat, che come al solito siete i nostri ascoltatori e ascoltatrici abituali, ma se no anche occasionalmente per il Ponte Radio, Radio Onda Rossa, Radio Blackout, Radio Spore, Radio Neanderthal, Radio Eustachio, Radio Quar. Me le sono ricordate Sì, tutte, infatti stavo dicendo grande Madonna. perché bravissima, C'è bravissima. sempre la gaffe dietro l'angolo, Sì, ma comunque. radio... No, Maria, ok. No, no, quella le no. dette tutte, Vabbè, bravissima. vabbè. Quindi, dicevamo, radio durante la resistenza, radio in qualche modo libere e clandestine, e sia dal punto di vista di radio che trasmette, sia dal punto di vista di radio che riceve. Divideremo questa presentazione di oggi in tre parti più o meno. Una prima parte che riguarda la storia della radio come mezzo di comunicazione, che quindi dalla sua nascita proprio effettivamente più o meno, insomma, o comunque dai suoi primi passi fino alle due guerre, la prima e la seconda guerra mondiale, e racconteremo ovviamente la sua importanza nei fenomeni bellici, in quello che riguarda quello di cui parliamo oggi, quindi la guerra. Poi ci addentreremo invece su alcune radio che trasmettevano durante la liberazione in Italia, quindi delle radio italiane che hanno dato un contributo, lo vedremo, piuttosto importante, non soltanto alla liberazione dell'Italia, ma anche alla ricostruzione dopo, cioè a quello che poi almeno in teoria sarebbe dovuto diventare nella testa dei partigiani e delle partigiane il paese dopo la liberazione. Poi vabbè, non è proprio andata così, ma vabbè. E poi l'ultima parte invece vi racconteremo non più delle radio che parlano, ma delle radio che ascoltano, quindi gli apparecchi effettivamente che venivano costruiti per ascoltare le radio di cui vi parlavamo prima, in condizioni però molto, molto problematiche, dentro i campi di prigionia in particolare, e nei campi di sterminio, insomma, in cattività. Quindi ovviamente il nostro pensiero va anche a tutte le persone che sono recluse in questo momento, e adesso forse è un po' più facile procurarsi una radio in cella, anche se non sempre e non dappertutto, e purtroppo, però insomma chiaramente ci interessa per vari motivi raccontare quello che vi racconteremo oggi. Quindi partiamo dalla storia. Sì, partiamo quindi con la prima parte, come hai introdotto. Sì, allora vogliamo dare una contestualizzazione, diciamo, tecnologica della radio rispetto ovviamente al contesto bellico. Questo lo specifichiamo, ma quando si parla di sviluppo tecnologico è praticamente inevitabile di legare lo sviluppo della tecnologia alla guerra, e appunto la radio non è diversa, non è una tecnologia diversa dalle altre. La radio si sviluppa nei primi del Novecento, c'è qualche esempio, qualcosina già nell'Ottocento, ma di base si sviluppa nei primi del Novecento, e le prime applicazioni un po' in tutto il mondo sono di carattere navale, cioè dei reparti navali degli eserciti, poi aeronautici, ma principalmente navali, un po' dappertutto. Ci sono già all'inizio, principalmente si sviluppa come tecnologia negli Stati Uniti, ma non solo, ovviamente ci sono tanti esempi famosissimi, Marconi, la BBC, eccetera eccetera, anche in Europa. Questo lo dico perché i modelli di gestione delle telecomunicazioni del tempo erano proprio molto distinti tra quelli che erano quelli americani e quelli europei. Quelli americani erano nell'inizio del Novecento, fino all'Ottocento, prima del Novecento, negli Stati Uniti c'era un'euforia tecnologica con tutti gli Expo, la corsa alle patenti, e quindi proprio un hype, come si direbbe ora, appunto, per la scoperta, l'invenzione e il brevetto. Questo andava di pari passo anche con una libertà di fondo legislativa che permise, insomma, in quegli anni negli Stati Uniti anche tanti esperimenti amatoriali. Questa è una cosa, è un effetto buffo dei primi del Novecento negli Stati Uniti, dove è una tecnologia che è molto accessibile. Si creano i primi club di radioamatori, sia in trasmissione che ricezione, come dicevi appunto, che è una distinzione importante. E sono appunto club che sono giovanili, includono donne, che per quegli anni era una roba insomma, particolare. La situazione è completamente opposta invece in Europa, in Italia in particolare, dove tutte le comunicazioni a lunga distanza, da quando esiste lo Stato italiano, sono appannaggio dello Stato, almeno non più, ma in quegli anni erano completamente gestite, controllate. E dei militari, ovviamente. E ovviamente dei militari. Però, appunto, nemmeno la ricezione era possibile. In Italia, quindi, ci sono i primi esempi, cioè i pochi esempi amatoriali di radio di quegli anni sono in ricezioni dovute a centri sperimentali, centri di ricerca, che di base ascoltavano l'ora esatta della Torre Eiffel. Questo era il gioco dei primi del Novecento in Italia, cioè i radioamatori facevano questo. Però accanto ai radioamatori, come dicevamo all'inizio, come oggetto di, insomma, di oggi, di quello di cui parliamo, l'applicazione principale era quella bellica. I due contesti, quello americano e quello europeo, convergono di fatti in una legislazione molto più stretta, proprio con la Prima Guerra Mondiale. Cioè la prima guerra mondiale e una serie di conflitti come la guerra russo-giapponese, la guerra anglo-boera, la guerra italo-turca, che sono tutte tra il 1905 e il 1918, sono tutti conflitti di quegli anni là, vedono la radio come strumento bellico. Si usavano per indicare posizionamenti delle truppe nemiche, per puntare i cannoni, per fare tutte queste robe qua. E si iniziano anche a fare i primi esperimenti di jamming, cioè si disturbano le comunicazioni altrui. Lo vedremo questa... Non ne parleremo ora perché non è il tema di questa puntata, però il jamming è un qualcosa che a tutt'oggi si fa moltissimo in ambito militare, sì. ha un'importanza abbastanza cruciale, è una delle cose che, le prime cose che viene fatte, è disturbare i segnali di radiocomunicazione. Che poi, ora forse la sparo, ma forse è stato proprio questo, c'è una discussione tra me e te sul jamming, forse è uno dei motivi per cui poi ci siamo intrippati di nuovo sulla radio. Su può questa. Essere, vabbè, chissà. Però insomma, ecco, dicevamo che la Prima Guerra Mondiale rappresenta un po' la convergenza degli approcci di un po' di tutto il mondo nel legiferare l'etere, fondamentalmente, proprio perché in quanto struttura, infrastruttura militare, doveva essere fondamentalmente garantito l'utilizzo militare. E quindi sì, già vediamo appunto un primo, cioè la tecnologia nasce e nell'arco di 10 anni diventa fondamentalmente regolamentata in seguito a delle guerre. Proprio perché, ora, per non fare dei tour infiniti sulla tecnologia della radio, appunto abbiamo deciso di concentrare questa cronostoria poi su quello che succede in Europa e in particolare in Italia. Quindi passiamo agli anni 20 in Italia e alla contestualizzazione di questo mezzo in Italia, dove praticamente la primissima diffusione effettiva, come in senso infrastrutturale, degli anni 20 e di base coincide con la nascita del fascismo, quindi con l'avvento del regime. Beh, gli anni erano quelli, tant'è che molto spesso si associa Marconi al fascismo, anche se vedremo non era proprio così, però gli anni effettivamente erano quelli. E ora, tra l'altro, mi veniva in mente mentre parlavi che ora dalla nostra... da quello che stiamo dicendo forse si potrebbe pensare che stiamo anche dicendo che la radio aveva di base connaturato il suo uso bellico. Ecco, non è propriamente così, però effettivamente noi ci stiamo concentrando su questo aspetto in questo momento. No, è vero, assolutamente. Non è connaturato, però purtroppo è oggettivamente molto tipico quel connubio in cui c'è uno sviluppo tecnologico e una conflitto, cioè un momento bellico, ecco, o quantomeno un utilizzo bellico. E poi appunto ci sono gli stravolgimenti, gli effetti boomerang da tecnologia che a noi ci stanno molto simpatici. Esatto. Sì, dicevamo, anni 20, siamo in Italia. E di base, quindi dicevamo, c'è una coincidenza, una contestualità tra lo sviluppo infrastrutturale della radio in Italia e l'avvento del regime fascista. Eccoci, sto perso gli appunti, sì. Sì, che è abbastanza appunto fortuito in un certo senso, non è, anzi, per tutti gli anni 20, in generale l'approccio alla radio in Italia era particolarmente scettico, era visto come appunto una tecnologia demoniaca, stramba, fredda, Ora, piuttosto incomprensibile anche perché appunto mancavano gli apparecchi, quindi era. sì, era comunque solo in pochi potevano pensare che cosa sarebbe diventato. Esatto, Ma sì. tra l'altro, questo va abbastanza di pari passo, cioè ha uno sviluppo simile a quello che poi sarà quello della televisione, se ci pensi, perché effettivamente le prime televisioni, ma non soltanto l'avvento della televisione, ma anche per esempio l'avvento della televisione a colori, è accompagnata da grosso clamore e da grosse critiche, cioè direi anche quasi bipartisan, nel senso che effettivamente io ricordo di aver ascoltato uno speciale in radio proprio molto interessante sulla Rai che raccontava del momento in cui in Italia si decide come dire, di sviluppare, di portare avanti, di concedere. Già era stato fatto, era già stata inventata la trasmissione televisiva a colori. Si discute se farla anche in Italia, se accoglierla anche in Italia. Questa cosa crea il panico politico, quindi grandi partiti, tra cui anche il Partito Comunista, demonizzano la televisione perché la televisione a colori in particolare, perché distraeva, perché era uno strumento in qualche maniera che ti toglieva l'attenzione da quello che era la lotta di classe, le cose importanti. E appunto succede fondamentalmente la stessa cosa negli anni 20, con forse la differenza che anche chi la erogava era scettico, cioè fu proprio Infatti. una tecnologia che fu un po' piombò un po' dal cielo, tra virgolette, cioè doveva, per stare al passo coi tempi bisognava farlo, ma Però quindi anche la radio in realtà non Sì, era. aveva avuto tra, ad esempio, proprio come dicevi, proprio il Partito Comunista negli anni 20 era italiano, era particolarmente contrario, scrisse un sacco di roba contro la radio, proprio perché ne vide la potenzialità di strumento di propaganda nelle mani di un regime in quegli anni là. Beh, e c'è da dire che effettivamente, come dicevi all'inizio, effettivamente era uno strumento che non era alla portata di tutte le persone, quindi non era una preoccupazione così fuori dal mondo, in effetti. No, no, no, infatti, quindi continuando un po' appunto con a passi lunghi in questa cronostoria, abbiamo appunto il 5 ottobre del 24 Mussolini che tiene il suo primo discorso radiofonico da un trasmettitore sperimentale e il giorno dopo, il 6 ottobre, la nascita ufficiale dell'URI, l'Unione Radiofonica Italiana, il 6 ottobre del 1924, che era una concessionaria unica per tutte le trasmissioni radiofoniche. La prima voce era quella di Maria Luisa Boncompagni. I programmi erano minimi, si parla di musica classica, ovviamente il bollettino meteorologico e notizie di borsa. Questa roba che i primi 50 anni di radio erano, c'era un'ossessione per la meteorologia, sempre comunque sia Strano, però divertente. effettivamente è vero, l'abbiamo ritrovato spesso Sì, quando si sì, parlava di radio, sì. che il bollettino meteorologico era la cosa che dovevi Sì, no, visto uno ascoltare. parla subito del tempo, no? Dice, non so Ci cosa dire. sta. Sì, come dicevamo, appunto, era un mezzo per pochi, per tutti gli anni 20, quindi insomma rimane un fenomeno molto limitato, lontanissimo dalle masse. La scarsa diffusione, appunto, era di base legata alla mancanza di apparecchi commerciali, che in genere erano pochi e molto costosi, ricezioni disturbate e in generale quindi un numero di abbonati bassissimo. Come dicevamo, il regime era di base scettico, era ancora in modalità adunate, oceaniche e tritacarni, e poi c'erano due problemi strutturali e linguistici sostanziali, cioè l'Italia era ancora un paese fortemente rurale, quindi non aveva una rete elettrica stabile, eccetera, eccetera, e poi c'era un forte dialettismo. Questo rese inizialmente problematico anche l'aspetto redazionale delle trasmissioni, cioè non sapevano bene come gestire questa cosa. Anche perché probabilmente semplicemente non venivi capito. Esattamente, e non avevano ancora invece quella vision pedagogica paternale di imporre la lingua tramite un mezzo unico, come sarà più nota ad esempio la televisione invece negli anni 50. E sì, Sì, continuando quindi, comunque sia, ecco, nonostante questi problemi, diciamo, lentamente l'interesse e lo sviluppo della radio prosegue, fino al 28, dove appunto l'URI viene trasformata in EIAR, che sarà appunto come si dice, aiuto, Precursore, sì. precursore, della RAI. E EIAR sta per Ente Italiano per le Audizioni Radiofoniche. Questo passaggio da URI a EIAR è fondamentale perché diventa, da, diciamo, una concessionaria privata a un proprio appannaggio dello Stato e solo dello Stato, quindi la trasmissione. La serie si sposta a Torino, tra l'altro, Torino ci rimarrà ed è così, la butto là, è interessante andare a vedere, se non ci siete mai state, il museo della RAI a Torino, che ospita entrambe, sia reperti che riguardano la televisione, sia la collezione che riguarda la radio. La parte sulla radio ovviamente noi, cioè, ci appassiona di più, però è molto molto interessante e tra l'altro diverse cose di cui vi parleremo oggi vengono raccontate lì. Così la butto là per chi si trova da quelle parti o ci va. Vale la pena. E quindi sì, insomma, negli anni 20, diciamo, c'è una partenza lenta, della radio in Italia, però c'è anche una prima strutturizzazione, una formalizzazione, un inizio di diffusione dell'infrastruttura. Ecco gli anni 30, però, che la radio diventa in Italia cioè che il regime inizia a usare la radio in maniera più sistematica, propagandistica e strutturale nella propria comunicazione, decide proprio di fascistizzare l'etere, e quindi per cercare di costruire consenso di massa. E si arriva anche a un monopolio di Ah, fatto. sempre di più. Diciamo che prima di ottenere la comunicazione di massa avevano già imposto un monopolio, cioè proprio con l'EIAR nel 28 avevano. Quindi c'è di fatto un po' un cambio di strategia, cioè diventa un interesse primario, del regime, e proprio perché si intuisce la possibilità di raggiungere appunto territori remoti, di appunto italianizzare, la penisola, eccetera, eccetera. E di base, gli anni 30 sono appunto gli anni in cui si vengono a creare le prime stazioni, quelle col nome delle città, quindi Radio Palermo, Radio Firenze, Radio Bologna, eccetera, eccetera, che inizieranno a esistere tutti gli anni 30 e che poi andremo di nuovo a vedere in delle parti a seguire di questa presentazione. Ma negli anni 30, se, secondo noi, almeno la nostra ricerchetta, praticamente ci sono state due iniziative che sono piuttosto significative, che furono fatte per diffondere forzatamente, i ricevitori, al giro per l'Italia. La prima si chiamava Ente Radio Rurale, è del 1933, ed era un progetto per dotare ogni scuola, parrocchia rurale e sede del partito di un ricevitore radio. L'apparecchio Radio Rurale, era un ricevitore a prezzo imposto. Erano 600 lire Tante, erano rateizzabili, 600 erano lire per l'epoca. tantissime, con caratteristiche tecniche standard definite da un concorso ministeriale. Era riconoscibile con fasci littori e spighe di grano sull'altoparlante. C'era tutto un meccanismo di esenzione dal canone se veniva comprato l'oggetto dallo Stato, che era vile e noiosamente vile anche da No, raccontare. diciamo che però, ecco, sono tutta una serie di incentivi per fare in modo che questo strumento inizi a diffondersi. Sì. Chiaramente, se il regime decide di investirci e di farne un mezzo di monopolio e di diffusione e di convinzione anche delle masse, le masse lo devono poter ascoltare. Certo, e comunque sia, sì, infatti forse la cosa che ora stavo dando per sottointeso è che si pagava un canone, cioè nonostante l'oggetto c'era un canone anche per l'ascolto, ecco, e tra l'altro appunto non era nemmeno così conveniente, aveva un costo significativo. Quindi questa cioè l'iniziativa Ente Radio Rurale del 1933, e passiamo a Radio Balilla, che invece è del 1937, che è un'evoluzione di questo progetto ed è destinata invece alle famiglie, cerca, quindi l'apparecchio costava di meno, circa 400 lire, con un circuito più semplice, specifico per le onde medie. Per dare un'idea delle aziende che producevano questi oggetti, ci sono nomi noti che poi rimarranno nel tessuto industriale italiano serenamente, come Radio Marelli, CGE ed altri. Era una cosa importante di Radio Balilla, dell'oggetto proprio, era che era tecnicamente limitato alla ricezione delle stazioni locali. Questa roba era fatta appositamente per evitare che ci fosse l'ascolto di radio estere e fu strutturalmente, cioè usandolo, cioè disegnando insomma questo oggetto in modo particolare, lo imposero sull'ascolto locale. Ed eravamo nel 37, Nel come dicevi, quindi 37. prima della guerra, ma già evidentemente Sì. c'era un intento isolazionista. Sì, ora, infatti, ora forse mi viene ora in mente che in effetti ho corso un po' troppo, cioè nel radioascolto in Italia, comunque sia, esempi di principalmente ascolto, però anche di trasmissione piratesca ce ne sono per tutto il Novecento. Tendenzialmente, però, hanno poca fortuna nella maggior parte dei casi perché gli oggetti che costruivano erano molto grandi e quindi erano Sì. molto visibili. Sì. Però no, se no si parla solo di Radio Balilla, Radio Rurale, mi mette l'angoscia. Quindi, un altro aspetto appunto invece che diventerà centrale degli anni 30 è l'inizio delle dirette. Cioè, con gli anni 30 radio, almeno in Italia, inizia a far uso sostanziale delle dirette e principalmente queste dirette saranno in chiave propagandistica coloniale. Beh, anche perché cosa si mandava in diretta? Gli eventi dei successi del regime. Sì, esatto. Quello, E quindi c'era una celebrazione collettiva, quello che si vedeva nelle piazze si doveva anche sentire. A chi non poteva esserci in piazza doveva ascoltarlo alla radio come se fosse ancora più corale. sì, no, però a me ha colpito non tanto la notizia data, ma il fatto che fosse legato alle dirette, Eh sì, che è proprio certo. il concetto di diretta, come appunto si inizia a capire la forza di una diretta, cioè in generale. In questi anni, quindi insomma, abbiamo questi tre contesti, quindi si sviluppano e si diffondono gli oggetti, quindi si iniziano a diffonderli sicuramente nei luoghi comuni, ma si mettono nelle piazze, nelle chiese, nelle sale dei partiti, nei circoli, dappertutto. Entrano nelle case con anche l'iniziativa di Radio Balilla e quindi passiamo da circa i migliaia di abbonati degli anni 20 a circa 1-2 milioni degli anni del 34 di abbonati. Ovviamente abbonati vuol dire 2 milioni di apparecchi, non di persone, quindi ogni apparecchio ha più ascolti, quindi immaginatevi quanto iniziava a diffondersi. I palinsesti, a me mi Esatto. intriga sempre. Sì, in questi anni sì, quindi negli anni 30 un palinsesto tipo era circa il 50% di musica, lirica classica leggera, 20% di propaganda diretta, notiziari, discorsi e robe del regime, 10% di programmi per bambini, pedagogia e linguistica di base, e il resto è diviso tra rubriche, meteo e pubblicità. Certo. Meteo immancabile. A me mi colpisce anche le pubblicità, comunque, devo Sì, dire. sì. Pensavo, non so perché, ma l'ho sempre associato a qualcosa come se fosse nato negli anni 50, ma no, evidentemente No, per pensa alla niente. Campari, tutto Eh sì. Eh i concetti di grafica, tutte queste robe qua. Sì, sì. erano merde fino in fondo. Un'altra roba che anche questa qua non mi aspettavo, ma che abbiamo trovato, è che nascono anche le prime trasmissioni verso l'estero, cioè che facevano propaganda internazionale, ad esempio verso il Nord America o anche l'Estremo Oriente, verso fondamentalmente popolazione italiana che stava là in quegli anni, che era una roba che io sinceramente non mi sarei aspettato. E quindi sì, diciamo, ecco, negli anni 30, anni 20 siamo fiacchi, anni 30 si inizia a strutturare e parte una spinta fortemente propagandistica e sicuramente delle celebrazioni, ma moltissimo anche delle prime dei primi tentativi coloniali, ecco, non primi, ci sono già dall'inizio del Novecento, però insomma dei tentativi coloniali quel periodo, di quel diciamo. periodo, del fascismo. Quindi Quindi andiamo avanti, andiamo sempre, avanti, sarà la nascita facciamo. del regime, qui siamo nel 40-45, quindi la Che, guerra. esatto, l'ultima parte di questa cronostoria, che infatti ogni volta lo voglio dire, ora quest'ultima parte si chiama La Remontada, Ta-ta-da. quindi che rigiriamo un po' la radio in altre forme, perché quindi, allora, col 40, nel 40, scusate, c'è l'entrata in guerra il 10 giugno e tutta la programmazione dell'EIAR viene completamente, quindi tutte le trasmissioni radio vengono completamente piegate alle esigenze belliche, diventando il principale strumento per diffondere bollettini di guerra e tutto, insomma, le parole d'ordine del regime di quel periodo. Dall'inizio, diciamo, le sconfitte militari e le bugie di tutta la propaganda diventano palesi, e quindi, diciamo, c'è un effetto boomerang con tutto l'ascolto radiofonico, perché appunto si racconta un mondo che è palesemente non reale, cioè iniziavano a tornare i primi morti, cioè le notizie di quello che succedeva in Africa, ad esempio, era chiaro. Ecco, questo è un aspetto che effettivamente io non mi aspettavo, nel senso non ci avevo mai fatto così caso. Però spesso si sottolinea l'importanza della comunicazione di massa come degli strumenti, quindi della televisione, ma in questo caso invece della radio, come uno strumento di potere per soggettare le masse, diciamo così, semplificando molto. E questo sicuramente lo è, però è vero che una volta che poi tu questo mezzo lo diffondi così capillarmente e che questo mezzo ha così successo, difficilmente torni indietro. Quindi effettivamente non succede sempre, ma a volte può succedere che ti si ritorce contro, perché a quel punto ormai è diffuso, ormai è percepito e lo è tuttora, cioè non è, cioè fa abbastanza effetto che la radio, l'ascolto della radio che tu parlavi, che sia iniziato con questo scetticismo, ma dura fino ad adesso con, se non lo stesso entusiasmo, comunque un entusiasmo molto costante. E quindi ecco, difficilmente poi a un certo punto te convinci tutte queste persone a dire no, no, aspetta, ma non gli dare retta alla radio se finora invece avevi Eh sì, spinto. eh sì. Però infatti, ecco, da questo punto di vista qua c'è una cosa che succede appunto in Italia in quegli anni, che è lo scetticismo è verso il contenuto e verso chi parla, cioè non si crede più al racconto di regime, ma non si smette di usare radio. Tant'è che in quegli stessi anni si diffonde invece l'ascolto clandestino, che diventa un fenomeno piuttosto diffuso, e lo possiamo un po' dedurre dal fatto che inizia a essere severamente proibito e punito. Se venivi trovato a fare ascolto clandestino, avevi 2 mesi di arresto e 1.000 lire di multa, che di nuovo per quegli anni erano tantissimi. E quindi questa, tra l'altro, cioè l'ascolto di massa, scusate, l'ascolto clandestino diventa Una forma di una resistenza. forma effettiva proprio di disobbedienza civile di quegli anni. E di nuovo, super velocemente, perché verrà di nuovo recitata dopo, dagli anni 40 in Italia inizia a essere ascoltata in maniera più sostanziale e diffusa Radio Londra, nasce un po' prima, però dagli anni 40 inizia a diffondersi. Ora di Radio Londra la sorvolo, tanto ci ritorniamo dopo, ma il punto, diciamo, di svolta di quest'ultima parte della cronostoria di cui sto parlando è il 43. Quindi il 25 luglio del 43 è la stessa, sempre è l'EIAR a comunicare agli italiani la caduta di Mussolini. L'8 settembre del 43 Badoglio annuncia l'armistizio, gettando il paese nel caos, quindi spaccando in due le trasmissioni radio in Italia. Ora cito questi eventi proprio perché la radio fu il mezzo con cui queste comunicazioni vennero comunicate diffuse per la prima volta. Certo. Quindi questa roba qua sembrava un po' didascalico, ecco. Quindi con l'8 settembre e l'armistizio l'Italia e anche le trasmissioni radio si dividono. Al nord le stazioni passano sotto il controllo della Repubblica di Salò, mentre al sud diciamo le radio che andremo a vedere tra poco, che si erano create negli anni 30 sotto regime, vengono riqualificate, diciamo, in un certo senso, si liberate a vengono tutti gli liberate, effetti. Sì. E quindi poi da questo anno in poi, invece dal 43, la radio torna a essere uno strumento, almeno dal nostro punto di vista, di liberazione e anche di resistenza. Le comunicazioni radio, sia più ufficiali che informali, come, o clandestine, come vedremo poi, iniziano a diventare armi, letteralmente, nelle mani dei partigiani e dei resistenti di quegli anni. E direi che, diciamo, per dare questo contesto ci siamo. Quindi abbiamo detto gli anni 20 fiacchi, gli anni 30 parte la propaganda e con gli anni 40 una perdita di credibilità e una liberazione dello strumento radiofonico. Ecco, questo è più o meno, diciamo, la cronostoria italiana della radio. Ed è in questo contesto che vi abbiamo raccontato adesso, dove vi abbiamo portato con questo rapido excursus storico, che arriviamo al momento delle radio liberate e alle radio durante la liberazione a tutti gli effetti dell'Italia, e però ci prendiamo un piccolo momento di pausa musicale in modo da riprendere un attimo fiato. ritorniamo in regia su Radio Wombat, ma anche sulle altre radio del Ponte Radio, niente, stavamo parlando di radio in relazione ai fenomeni bellici, in relazione alla guerra in particolare. La radio ha avuto sempre un peso nelle guerre, anche adesso lo ha, ma qui ci stiamo concentrando sulla Seconda Guerra Mondiale in particolare, e in particolare in Italia, ma lo vedremo non soltanto, ma insomma in grossa parte sì. Però partiamo per raccontare un pochino le radio liberate, le radio della Resistenza, invece partiamo non dall'Italia ma da Londra, parliamo di Radio Londra, che citavi anche prima, che ovviamente tra le radio di cui vi parleremo oggi probabilmente è la più conosciuta, la più famosa. E ecco, intanto sfatiamo subito un'impressione che potreste aver avuto. Io ad esempio l'avevo avuta, io pensavo, mi immaginavo Radio Londra come una vera e propria radio nella concezione più moderna del termine, quindi con un suo palinsesto, una durata di trasmissioni tendenzialmente H24, che io quando potevo accendevo la radio e l'ascoltavo. Ecco, no, mi ha stupito, ma così, non perché sia eclatante, però effettivamente da fan delle radio quale sono, mi ero fatto un'immagine un po' sbagliata. Radio Londra di fatto era un insieme di trasmissioni, non era non copriva assolutamente le 24 ore, non aveva un palinsesto, non era manco una vera e propria radio per come la concepiamo noi. Era un insieme di trasmissioni che la BBC destina in quel periodo storico alle popolazioni di vari paesi dell'Europa continentale, sostanzialmente. Iniziano queste trasmissioni il 27 settembre del 38, quindi abbastanza alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, e con lo scoppio delle ostilità nel 39 Radio Londra le aumenta queste trasmissioni, in particolare aumenta le trasmissioni in italiano verso l'Italia, sì. Fino ad arrivare a 4 ore e 15 minuti nel 43, quindi in realtà si sta parlando di un arco temporale piuttosto piccolo, cioè dovevi essere estremamente fortunata a beccare quelle trasmissioni. Lo vedremo, intanto non era semplice captare da così lontano, ci arrivava, però insomma non era così semplice beccare Radio Londra, però dovevi anche beccare il momento della giornata in cui veniva trasmessa, perché comunque nel 43 arrivano a 4 ore, negli anni precedenti molto meno. E sì, era un complesso, nel senso, pensate a un problema, c'era qualsiasi dei problemi, esatto, possibili, tipo cattiva ricezione, ce l'ho, non so, esatto, l'ora, ce l'ho, esatto, magari la lingua è sbagliata, perché le trasmissioni tra l'altro erano anche in altre lingue, sì, per altre nazionalità, quindi sì, era tutto vero, magari beccavi quella non per te. Sì, sì. Ora, uno dei, come dire, delle cose essenziali che si ricordano di Radio Londra è il colonnello Buonasera, perché era chiamato così, chiaramente non era il suo nome, ma era chiamato così perché questi discorsi, una di queste trasmissioni, erano questi discorsi di un colonnello che veniva chiamato dagli italiani il colonnello Buonasera, perché questi discorsi iniziavano tutti con Buonasera. E esordiva sempre con Buonasera. Con questo probabilmente, ora io non ho sentito degli audio originali, ma me lo voglio immaginare con questo accento un po' britannico, Buonasera, un po' così. E iniziano appunto, come dicevamo, in quegli anni, e uno dei discorsi del colonnello Buonasera ve lo facciamo sentire, in realtà ve lo leggiamo perché non abbiamo l'audio originale, è del 22 aprile del 41, e è un discorso, vi facciamo ascoltare, vi leggiamo solo un pezzetto, ma perché serve a capire, raccontarvi un po' meglio che cosa voleva dire ascoltare Radio Londra in Italia nel 41. Buonasera. 2 mesi di arresto e 1.000 lire di multa con la condizionale. È questo il prezzo per ogni cittadino italiano incensurato dell'abbonamento alle trasmissioni di Radio Londra, oltre al canone annuale dell'EIAR e all'eventuale confisca dell'apparecchio, se questo è di proprietà del nostro ascoltatore. Il prezzo è caro, ne conveniamo, ma non siamo noi a trarne profitto e d'altronde il numero crescente dei nostri ascoltatori dimostra quanto siano vaste le categorie di italiani che affrontano questo rischio per ascoltarci. Non vi è esortazione della stampa o delle autorità fasciste, non vi è minaccia di pene, non vi è sanzione effettiva che possa circoscrivere o fermare questo continuo allargarsi della massa di nostri ascoltatori in Italia. Nel nord e nel mezzogiorno, nel centro e nelle isole, nelle città e nelle campagne, montagne o sul mare, non vi è un centro abitato nel quale la voce di Radio Londra non sia ascoltata. Vabbè, qui siamo chiaramente in un linguaggio propagandistico che... Megalomania, infatti. Non si scappa. Cioè. Furtivamente, eppure con intensa attenzione, con l'emozione di fare ciò che è proibito e di preservare qualche cosa di caro. In ogni casa, in ogni grande casamento cittadino, una data ora del giorno e della sera, vi è almeno una radio il cui altoparlante parla sommesso come un sussurro. È l'ora di Radio Londra e il capo fabbricato non deve sapere, per quanto forse sia occupato ad ascoltare anche lui. Si mandano i bambini a letto perché non parlino l'indomani a scuola e qualcuno faccia la spia al maestro e il maestro faccia la spia al fiduciario rionale. Se una visita batte alla porta, la radio viene spenta di colpo. Si spengono i lumi a volte, come se l'oscurità dovesse attutire il suono. Si ascolta la cuffia, si adoperano antenne portatili, orientandole in modo da favorire la ricezione ed eliminare le rumorose interferenze delle stazioni fasciste. E quando si può ascoltare perfettamente il segnale, è come un trionfo. Questo solo l'incipit... Però rende bene l'idea, facendo la tara chiaramente del linguaggio un po' pomposo dell'epoca, tra l'altro, e in generale del fatto che eravamo in guerra e quindi il linguaggio propagandistico abbiamo presente qual è, però facendo un po' la tara comunque abbastanza, credo fosse abbastanza realistico di quello che succedeva, cioè... di fatto non era semplice ascoltare Radio Londra per tutte le ragioni che vi abbiamo già detto, si sentiva male, era molto disturbata, ma anche e soprattutto perché i vicini potevano denunciarti, quindi l'ascolto di Radio Londra, quando ci si riusciva tecnicamente, era un ascolto clandestino a tutti gli effetti, che veniva fatto collettivamente spesso, perché comunque... Come abbiamo visto, non erano tantissime le famiglie che potevano permettersi un apparecchio radio, anche se era stato diffuso. Più facile che ci fosse una radio condivisa tra tante famiglie o tra tante persone in un paesino magari. E quindi non è che te quando volevi arrivavi e ti mettevi ad ascoltare Radio Londra. Ma infatti prima dicevi, no, la confisca dell'apparecchio era se l'apparecchio era del privato. È vero, perché non sempre lo era. Probabilmente era magari, che ne so, appunto di un luogo... Una fabbrica magari. Di un posto comune dove tu lo riutilizzavi per ascoltare Radio Londra. E sì, e come dicevamo, si sentiva male, era molto disturbata, questo perché, allora, intanto... Da un punto di vista tecnico, le onde medie sono un tipo di comunicazione che va abbastanza lontano, cioè la radio viaggia, copre abbastanza distanze, quindi non era così strano pensare che una radio facesse tanti chilometri. Lo era a maggior ragione a quei tempi, perché se adesso c'è molto rumore, c'è molto... inquinamento elettromagnetico, chiamiamolo così, ci sono molte interferenze, molti apparecchi elettronici che di fatto rendono più complesso, vanno a interferire con la comunicazione radio in onde medie. Al tempo non era così, c'era anche meno costruzioni, c'erano meno intralci di tanti tipi, diciamo. Quindi in realtà non era così strano pensare di poter ascoltare Radio Londra, ma si sentiva male, si sentiva solo in alcune parti d'Italia e quindi assume un'importanza molto importante il ripetitore, cioè le radio che fanno da ripetitori, ovvero delle altre radio che di fatto prendono il segnale di Radio Londra e lo rimandano. Lo vedremo dopo, non è che lo rimandano in diretta, lo rimandano registrato di base. Sì, sì, sì. Anche questo, insomma, non è una roba che era proprio agilissima, poi vedremo meglio come veniva fatto. C'era un'altra radio che trasmetteva dall'estero con intento di propaganda antifascista in Italia e che si chiamava Radio Milano Libertà, che trasmetteva da Mosca e per dirne una, da questi microfoni Togliatti leggeva i suoi testi, quindi era un po' la radio degli esiliati a Mosca, degli italiani esiliati a Mosca. Però se ne parla di meno, ne troverete di meno, un po' perché è evidente, per ragioni ovviamente politiche, che se ne parla di meno, ma anche perché effettivamente l'ascolto dall'Italia era molto più difficile. Effettivamente fare arrivare, cioè ascoltare Radio Mosca da Sì, Ciozzolo. era possibile principalmente ascoltarla nel nord Italia, nord-est ovviamente, ma non era diffusa sul territorio italiano come Radio Londra, ma né di fama, come dicevi te, per ostruzionismo anche di bassa lega che per altri motivi. Questioni geografiche Sì. tecniche. Allora, il 10 luglio del 43 sbarco in Sicilia, come sappiamo, e insieme alle truppe militari, diciamo più ovvie, più armate, sbarca anche il cosiddetto quarto fronte, ovvero il generale Patton e la missione che gli era stata affidata del Psychological Warfare Branch, ovvero il fronte culturale della guerra, cioè gli alleati ritengono in maniera, penso, molto molto intelligente, la guerra non si vince soltanto con, e soprattutto anche il dopo, non si vince soltanto con le armi, ma c'è una guerra di tipo culturale da fare. Quindi l'obiettivo del Psychological Warfare Branch era in primis le infrastrutture di comunicazione. E quindi, siccome una delle prime cose che durante una guerra viene fatta a pezzi, viene occupata, è l'infrastruttura di Esatto. comunicazione. Così era stato anche in Italia, con l'occupazione tedesca, le radio sono tra le prime cose che vengono occupate e molto spesso, lo vedremo, i tedeschi le distruggono. Questo quarto fronte alleato era incaricato di ricostruire le infrastrutture radiofoniche italiane e lo vedremo di prenderne di fatto il controllo. La prima radio coinvolta ovviamente dallo sbarco in Sicilia è Radio Palermo. Come dicevi prima, le radio hanno il nome di città, poi lo vedremo. Non pensate che la diffusione di quella radio era soltanto localizzata a quella città, cioè ai confini geografici di quella città. Non era proprio il nome della stazione, cioè era il riferimento principale di trasmissione. Sì, magari era sì, il centro di trasmissione o di riferimento, però non era solo a Palermo, solo a Firenze, ecco. Eh no, anche perché, poi lo vedremo un po' meglio, avevano una capacità di trasmissione che andava ben oltre i loro confini. Quindi Radio Palermo viene liberata il 5 agosto del 43, quindi poco dopo, quasi un mese dopo lo sbarco in Sicilia. Poi si arriva in Puglia, e in Puglia, vabbè, diciamo che in entrambe le radio, insomma, in tutte le radio liberate, almeno in questa prima fase, i programmi, cioè si ricostruiscono le infrastrutture, si ricostruiscono le stazioni radiofoniche, ma i programmi, vengono supervisionati dagli alleati. Qui vedremo un po' meglio dopo, quando parleremo delle singole radio. Gli alleati non si fidano degli italiani, neanche della resistenza, tantomeno della resistenza, quindi non si fidano di dargli, nonostante ci sia stato l'armistizio, non si fidano di dargli i programmi, e quindi i programmi sono supervisionati. Gli intramezzi musicali sono di fatto dei mus intermezzi musicali. Di musica che al tempo fino allora era proibita, perché, come sappiamo, gli alleati si portano, gli americani in particolare, si portano dietro i dischi della vittoria, i V-Disc famosi con questo nome, che erano dei dischi, beh, di fatto se li portavano insieme alle calze di seta, apposta con un intento anche di colonizzazione culturale. Sì. Questo, boh, è abbastanza evidente. E però c'è un fatto che effettivamente finalmente in Italia si può ascoltare con una certa libertà tutta quella musica che finora era vietata, perché il jazz, tutta la musica, c'era un Il embargo. blues, sì, c'era comunque sia tutto ciò, tutta la musica non italiana era preclusa in generale, figuriamoci musica fatta da persone di colore in uno stato estero, era proprio. Sì, musica afroamericana proprio ciao. Però in particolare, sì, la musica che proveniva dagli Stati Uniti era proprio la musica del nemico. E tant'è che appunto in quegli anni, durante gli anni del fascismo in Italia, non è che non arriva del tutto, perché arriva clandestinamente, sì. Si balla clandestinamente, il ballo era vietato, i balli di gruppo frenetici erano vietati, insomma. Quindi obiettivamente questo momento è anche un momento di gioia, in cui finalmente attraverso la radio si può ascoltare con una certa, penso, liberazione, senso di liberazione, non soltanto discorsi politici, ma anche della musica, e della musica diversa da quella che, la lirica, che veniva imposta. Di 25 anni, tipo. Esatto, sì. Se non di peggio, cioè, vorrei dire. Sì, davvero. Cioè. Esatto. E, quindi dicevamo che lo sbarco in Sicilia, da Radio Palermo si arriva in Puglia, e arriviamo quindi a parlare di Radio Bari, che è una delle radio più importanti di cui parliamo oggi in questa trasmissione. Radio Bari, come altre radio, era una radio EIAR, quindi, come dicevi te, l'antesignano, cioè il precedente della RAI, ed era una radio nata nel 1932, quindi in piena epoca fascista, e era una radio importante su cui il regime aveva investito moltissimo. E, per esempio, per dirne una, fu la prima a dare l'annuncio dell'assassino di Gentile. E, è una radio molto potente per l'epoca, perché aveva come potenza 20 kW, che sono tanti, perché pensate che più o meno a quell'epoca, io faccio un calcolo veramente a spanne, ma credo che tendenzialmente, considerato appunto tutte le questioni che vi dicevamo prima della geografia diversa rispetto a quella di adesso, che c'erano molti meno, c'era molto meno inquinamento elettromagnetico, quindi era più facile. Esatto, non c'erano troppe interferenze. Un kilowatt tendenzialmente bastava probabilmente a coprire una città di grandi dimensioni, di medie grandi dimensioni. Andando un po' a spanne, 20 kilowatt, capirete che insomma si sta parlando di qualcosa di molto più vasto. Tant'è che era la seconda radio più grande d'Italia dopo quella di Roma. E perché? Perché Mussolini ci aveva investito, perché, data la sua posizione geografica, doveva arrivare alle colonie. Essendo a Bari, chiaramente era una posizione molto strategica, molto utile per arrivare all'Albania, alla Grecia, insomma, si andava parecchio lontano. L'8 settembre del 43, stiamo arrivando alla liberazione di Bari. A Bari ci sono violenti scontri tra tedeschi e alleati, e il 9 settembre, quindi il giorno dopo, a Bari sempre, una colonna di 7 o 8 autocarri tedeschi attacca a colpi di mitragliatrice il Palazzo delle Poste e Telegrafi, che era la sede di Radio Bari. E che succede? Succede che gli alleati, e insieme però anche ai dipendenti delle Poste e Telegrafi e anche ai dipendenti della stessa radio, rispondono al fuoco e sparano sui tedeschi e riescono a difendere la radio. Si asserragliano dentro e riescono a difenderla e tengono la posizione. Mantenendo tra l'altro apparecchiature e ripetitori appunto intatti, no? La cosa, sì, molto particolare, ma lo vedremo, non è l'unica radio che riescono a difendere sia i ripetitori che alcune apparecchiature. Le apparecchiature funzionano, che i ripetitori penso sia un mezzo miracolo che li hanno salvati. Invece per le apparecchiature, i trasmettitori, eccetera, succede che siccome lo scontro, ok, loro l'avevano difeso, ma la città non era ancora liberata, i tedeschi non si erano ancora ritirati, i dipendenti della radio, temendo che le apparecchiature venissero confiscate dai tedeschi, le nascondono. Un ingegnere in particolare le prende e le nasconde. In questa maniera salva di fatto la radio. Un altro tecnico invece depotenzia il trasmettitore, perché erano due i rischi: uno che venisse sabotata E l'altro è che nel caso in cui si fosse perso, i tedeschi si prendevano la stazione, a quel punto la usavano loro di base. Però insomma, ecco, è significativo. Ci sono due cose secondo me che sono interessanti. Un po' è, cioè, a monte di tutto c'è il capire che la radio era uno strumento, insomma, iniziava a essere qualcosa di importante, Da cioè difendere. da difendere o da distruggere dal punto di vista dei tedeschi che scappavano, cioè, no? Era una parte infrastrutturale che doveva essere possibilmente distrutta, dall'altro essere difesa, ma la cosa più divertente forse e che poi dopo ci aiuterà in questo racconto in seguito era che in un momento magari teso, di conflitto, se te trovavi una bobina su un tavolo, te la mettevi in tasca perché dovevi tutelare degli oggetti che altrimenti erano difficili da reperire e che poi saranno fondamentali in altri contesti, o anche nel far ripartire Radio Bari, appunto, nascondendo quel pezzo che dici: aspetta, se me lo beccano, poi non lo ritrovo. E questa roba qua è, per i radioamatori che avete capito, ci stanno abbastanza simpatici, è un dettaglio Sì, particolare. c'è questa prontezza che tu Sì. dicevi e lungimiranza anche di fatto non è No. banale. E se ne parla anche un po' poco nella storia della liberazione e della resistenza, però c'è da dire che veramente in moltissime radio che abbiamo studiato per preparare questa trasmissione, ci siamo resi conto che davvero ci sono storie molto simili di persone che lavoravano in radio e che si rendono conto dell'importanza di salvare quella radio, sia tecnicamente sia come contenuti, e lo fanno insomma, mettendoci anche i loro corpi. Qui invece, appunto, la storia finisce bene perché Bari viene liberata e la radio viene occupata da un gruppo di antifascisti, cioè inizialmente la radio non viene presa subito dagli alleati, ma direttamente dagli antifascisti italiani. In particolare da un gruppetto in cui dentro c'è anche Benedetto Croce, il gruppo La Terza, il Partito d'Azione, quel giro là, ecco, che inizia a trasmettere subito dalle frequenze. Non è banale perché questo gruppo di persone non aveva né le competenze tecniche, quindi chiaramente sono stati aiutati come si diceva, dalle persone che già lavoravano in radio. Ma non aveva neanche esperienza di come si sta in radio, cioè di come si fa il radio, di cosa si dice. Quindi è interessante ascoltare le loro esperienze perché ci parla proprio di un momento iniziale in cui si dice: ok, abbiamo preso la radio, e ora che si fa? Tutti i partiti del CLN tendenzialmente erano interessati alla radio, come dicevamo all'inizio, si era capito a un certo punto dell'importanza strategica della radio, l'aveva capito ovviamente anche il Comitato di Liberazione Nazionale, ma va detto che tra tutti, più che altro il Partito d'Azione l'aveva capito, ma più che altro aveva La capacità, sì, le capacità, le diciamo. energie, anche la capacità intellettuale, soprattutto. Era in grado di produrre contenuti per la radio, cosa che invece gli altri partiti, le altre componenti della resistenza facevano più fatica. Almeno lì a Bari, in quel contesto là, in quel momento là. Sì. Sì, comunque molto spesso lo vedremo, sono questi gruppi che danno vita a queste esperienze. Allora che succede? Che per la prima settimana vengono, siccome appunto non si sapeva bene cosa farci con questa radio, vengono ritrasmessi i radiogiornali di Radio Londra e di Radio Algeri, cioè Radio Londra viene mandata così perché tanto C'era un era in tot di italiano, trasmissioni, sì, in italiano, sì. invece Radio Algeri veniva tradotta, quindi veniva mandata quello che succedeva da Radio Algeri. A me ha colpito molto che la prima cosa che si manda in un momento storico in cui si è in crisi di propaganda coloniale è Radio Algeri. Ma vabbè, dal 16 settembre, quindi poco dopo, arrivano gli alleati e impongono il controllo sulla radio. Tra l'altro, questo stava anche negli accordi dell'armistizio, cioè gli alleati dovevano prendere il controllo delle infrastrutture di comunicazione. Perché? Perché sostanzialmente non si fidano di Badoglio, non si fidano degli In italiani, generale, beh, anche un po' comprensibilmente c'è da dire. E tra l'altro il Partito d'Azione È d'accordo, anche perché anche loro non si fidano di Badoglio e hanno paura che senza il potere degli alleati, evidentemente loro magari si sentono di non riuscire a mantenere il controllo. Questo, boh, sembra essere stata un po' la loro idea di quel momento. E che succede? Gli alleati prendono il controllo e censurano molte notizie, ovviamente. Però a Radio Bari il caso ha voluto che la persona il maggiore, in particolare il militare, il maggiore britannico che era incaricato di questo controllo, di questa supervisione su Radio Bari, il caso ha voluto che fosse Ian Greenlees, che tra l'altro personaggio piuttosto famoso a Firenze, un antifascista che a Firenze, insomma, abbastanza noto, e che era un traduttore ed era un grande fan di Croce, di Benedetto Croce. Quindi gli consente una certa autonomia. Alla fine la storia va avanti anche così, a botte di casualità, c'è da dire. E un episodio molto famoso che si cita sempre parlando di questa cosa è degli episodi dei testi che lui doveva censurare. Perché chiaramente tutti i testi che venivano letti in radio dovevano essere letti dagli alleati, approvati e nel caso censurati. E lui sceglie di sottolineare le parole anziché cancellarle. E con questo escamotage un po' così, un po' ambiguo, fa in modo che lancia un po' un segnale. Lui il suo l'ha fatto, ha segnalato le parole che non si potrebbero dire, però poi eventualmente se nasce qualche fraintendimento, tutti hanno fatto il loro e vabbè. Radio Bari, dicevamo che era 20 kW, perché? Perché Mussolini la voleva, come dicevamo, come Come radio mittente internazionale, ecco. verso le colonie. Aveva un intento palesemente colonialista il suo, cioè non c'era nient'altro. Tant'è che fu la prima emittente in Italia a trasmettere notiziari in albanese, serbo, bulgaro, rumeno, greco e turco, che per una radio italiana non è una cosa banale, non lo è assolutamente adesso, figuriamoci all'epoca. E tra l'altro faceva una programmazione in lingua araba molto, molto vasta, molto approfondita. Qui non ci facciamo, come dire, illusioni. Era un proprio ovvio tentativo di espansione in opposizione al colonialismo francese. Come in effetti, ad esempio, i notiziari in turco non è che erano ovviamente, cioè, rivolti contro l'impero ottomano, Ma ecco. infatti viene data di fatto la voce alle istanze indipendentiste di questi paesi, ma in chiave strategica contro i francesi. Cioè, perché di base il fascismo si dava, cioè si rivendeva con questo volto del fascismo rivoluzionario liberatore dei popoli, no? Quindi di fatto quello che si cercava di spingere era l'idea di un fascismo che avrebbe liberato dai francesi per poi dominare lui, chiaramente. Quindi sostanzialmente quello che si diceva era: no, ai francesi non vi piacciono, venite sotto di noi, che invece si sta bene. Quindi non c'era niente di internazionalista o di positivo in tutto ciò. No, no, no. Questo per sgombrare il campo da ogni dubbio, se mai ci fosse stato. Di fatto, però, va detto che Radio Bari, con questo scambio forzato in qualche maniera è voluto che si era cercato con tutti questi altri paesi, di fatto interloquiva con tutti questi paesi e non con la parte religiosa, ma con le parti laiche nazionaliste, che poi sono quelle che in parte avrebbero dato vita alle lotte di liberazione. Ad esempio, come dire, mi viene partnership orribile, comunque, così, gli scambi di contenuto con Radio Algeri nascevano per quello. E poi dopo la liberazione, le lotte di indipendenza in Algeria, sono state ritrasmesse. Le persone che andavano a intervistare di fatto erano quelle che poi hanno dato vita al fronte di liberazione, per esempio. Si dava moltissima importanza alla musica araba, questo mi ha molto colpito, quindi da Radio Bari nel 1944 si mandava la musica araba. E quando arrivano gli antifascisti, appunto, e occupano Radio Bari, questo approccio, come dire, internazionale, rimane. E i contatti sono quelli, chiaramente, quindi che fai? Non è che ricominci da capo. Quindi si fanno 20 ore giornaliere di palinsesto, si riescono a ottenere, quindi sono tante. E vengono fatti 8 collegamenti con Radio Londra e vengono, come si diceva, mantenuti i contatti con l'Albania e con gli altri paesi. Chiaramente cambiano i contenuti, cambia l'approccio. Questa volta l'intento non è più quello coloniale, ma è quello di far sapere che un paese si era liberato e si era, con la resistenza, si era liberato dal regime fascista. Quindi ovviamente cambia. E a Radio Bari arrivano, confluiscono persone da tutta Italia, si crea una sorta di gruppo che viene chiamato i 100 di Radio Bari, dove dentro ci sono scrittori di teatro, tecnici, giornalisti, e arrivano da tutta Italia. Ora, pensate che viaggi da tutta l'Italia, che non era liberata, che era dove c'erano scontri dappertutto, non era affatto facile, quindi il fatto che da tutta Italia siano riuscite a confluire persone con condizioni di viaggio, penso, piuttosto rischiose, la dice lunga sul quanto questo mezzo di comunicazione fosse considerato importante in quel momento. E ora vi facciamo ascoltare un po' di audio, perché gli audio di Radio Bari ci sono stati digitalizzati, si trovano negli archivi e quindi Valgono la pena si comunque questi valgono archivi. Sì. tantissimo la pena, ed è la parte anche un po' più interessante e più buffa di questa trasmissione, forse, che vi facciamo ascoltare anche non le nostre voci, ma anche le voci dell'epoca. Partiamo dal programma di punta di Radio Bari, che si chiamava Italia Combatte, che era un po' il programma che andava in onda ogni sera alle 22:30. Che era il programma che parlava ai partigiani del nord e alle popolazioni ancora non liberate, quindi parlava a persone che stavano in clandestinità. E serviva a dare informazioni concrete, a fomentare e supportare la resistenza, ma lo vedremo anche dopo, faceva molte riflessioni su quello che sarebbe dovuta diventare l'Italia una volta liberata, e questo è un altro aspetto interessante, che non era solo quello bellico, ma anche Ma più anche quello di, politico. sì, di ricostruzione. Esatto, e quindi ci ascoltiamo, sì, questo primo estratto veloce di Radio Bari che dal programma Italia Combatte. L'Italia combatte, questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i crisi. L'Italia combatte. Viene trasmessa tutte le sere, dalle 22:30 alle 23 da Radio Bari. Ciò che ora diremo è di estrema importanza. Romani, state in guardia. Una grave minaccia pesa sui patrioti romani. Un altro crimine nazifascista sta per colpire la cittadinanza dell'Urbe. Ascoltateci con attenzione. Ciò che ora diremo è di estrema importanza. Ne va della vostra vita. Si tratta di questo. Elementi delle Schutzstaffel fasciste, d'accordo con le autorità germaniche, nei prossimi giorni scenderanno in piazza inscenando una finta dimostrazione antitedesca. Lo scopo delittuoso è di indurre così i patrioti a scoprirsi e a compromettersi. Tutti i cittadini che abboccheranno all'ignobile tranello saranno trucidati sul posto. Romani, state in guardia. Ricordate che al momento opportuno riceverete tempestivamente da noi il segnale per agire. Prima di allora non lasciatevi ingannare. Non scendete in piazza. Per ora voi dovete restare nascosti. Gli occhi delle spie fasciste e tedesche sono su di voi per colpirvi ad ogni mossa incauta. Thank you. L'Italia combatte. Questa trasmissione è dedicata ai patrioti italiani che lottano contro i tedeschi. Istruzioni per il sabotaggio. Vi leggiamo istruzioni particolareggiate. Patrioti, osservate dove il nemico colloca le mine. Indi recatevi sul posto e dissotterratele. Cercate i depositi dove il nemico le accumula e trafugatene più che potete. Se le mine sono troppe per poter essere portate via tutte, i più esperti tra voi sapranno come far saltare quelle intrasportabili perché in soprannumero. Avrete forse a che fare con una o due sentinelle, ma oramai sapete come agire con loro. Potete quindi cominciare a sistemare le vostre mine. Sistematele in quei luoghi dove voi siete certi che passano automezzi e trasporti tedeschi. Ricordatevi poi esattamente dove avete sistemato le mine. È importante. Affinché quelle inesplose possano più tardi essere rimosse sia da voi che dai nostri ingegneri. Questa invece è una quella che avete sentito, era la rubrica sui sabotaggi. Ora, un'altra rubrica sempre all'interno di Italia Combatte era una rubrica che si intitolava Spie al muro. Spie al muro. Italiani, patrioti, occhio alle spie. A Roma, in questo momento, i delatori ed i venduti ai nazifascisti sono aumentati. Vi nominiamo stasera alcuni tra gli elementi più pericolosi che agiscono nella capitale. Essi sono Arturo Lucarelli. Arturo Lucarelli ha 38 anni. È alto 1,87 m. Ha i capelli neri con scriminatura e baffi arricciati. Luigi Silvestri. Luigi Silvestri ha 45 anni. Di corporatura tozza, parla con accento toscano. Mario Amendola Di Carlo. Mario Amendola Di Carlo ha 30 anni. È alto, sottile e biondo, di origine calabrese. Ecco, per non lasciare niente al caso, come si dice. Questi erano dei piccoli audio giusto per darvi anche un'impressione di quello che... Poteva essere la trasmissione, no? Eh sì. E invece ora vi facciamo ascoltare la voce, purtroppo non la sua, però il testo scritto da Alba de Céspedes, che era una delle voci principali di Radio Bari, che come una persona che come le altre arriva a Radio Bari per dare il suo contributo e è una persona molto attiva dentro Radio Bari. E lei racconta un pochino che cos'era fare Radio Bari e che cos'era in quel momento storico, in quel momento in cui ancora tutto si stava succedendo, come dire. È una lettura molto bella che abbiamo preso, che in realtà non è la sua voce, quella che sentirete è la voce di un'attrice, ma ci sembrava comunque molto bella farvela ascoltare, perché a noi fa molta emozione, anche perché per quanto non siamo assolutamente in una situazione del genere, però sentire una... Ci risuona. Sì, una persona che parla così del fare radio, chiaramente a noi ci emoziona. Una strada dritta e ventosa, via Putignani a Bari. Ogni sera, verso le 11, noi la percorrevamo muti e frettolosi come quando ci si reca ad un appuntamento importante. Nel fondo, il portone della radio gettava sul marciapiede una striscia di luce giallastra. Entravamo e spesso ci accoglieva un motivo di musica leggera. Ufficiali alleati passavano presi nei loro incarichi. Qualcuno annunciava: «È arrivata l'Italia combatte!» Eravamo imbarazzati di portare questo titolo solenne, noi, poveri cristi, stretti nei nostri logori abiti di profughi, le scarpe rotte. In quel viavai di lingue straniere che ci circolavano attorno, era quella la prima mezz'ora concessa alla voce della libera Italia, e a volte ci pareva che né la nostra faticosa esperienza, né il fatto di aver traversato le linee, e neanche il nostro acceso entusiasmo, bastassero a darci il diritto di parlare. Al primo piano, la sala di trasmissione era una stanza qualunque foderata di sdrucciti tendaggi neri. Eppure, là dentro, noi ritrovavamo il nostro clima naturale, respiravamo in libertà. si chiudeva gelosamente la porta al modo di un bastone di frontiera e subito ci sentivamo pronti e scattanti come soldati prima dell'attacco. E difatti, quella era la nostra trincea. Da lì combattevamo, seppure una battaglia di parole. Seri, pallidi, comunicavamo tra noi col solo volger degli occhi. Poi, quando di colpo udivamo le note dell'inno di Garibaldi, a tutti il cuore prendeva a battere nel petto senza più ritegno. Rapida di contro a noi, la lancetta dell'orologio incominciava a camminare. Mezz'ora, niente di più, come dire un minuto. Uno di noi parlava a turno e gli altri lo fissavano, controllando quasi il peso, il valore delle sue parole. Davanti a noi stava il microfono, freddo. Forse, oltre quello, gente stava in ascolto. I patrioti nei rifugi montani, i cittadini nelle loro case, e tutti rischiavano la vita per ascoltarci. O forse nessuno. Le trasmissioni, si sapeva, erano disturbate. Avremmo voluto udire in risposta una voce, una parola. Temevamo di parlare nel vuoto, inutilmente scoprire i nostri più riposti sentimenti. Parevano sordi e muti. Ci stavano. Sì. Ora ci tengo l'ultima cosa da dire, che ci tengo un po' su Radio Bari, poi ci allontaniamo, è che uno si immagina le radio di quel periodo come delle radio sostanzialmente che parlano di politica in senso stretto, che quindi fanno grandi discorsi, grandi proclami, grandi, giustamente, anche come abbiamo visto prima, che davano informazioni precise, concrete. Meteo sicuramente. Ora, tutto vero, perché lo è stato, ma soprattutto Radio Bari aveva una programmazione, un palinsesto culturale molto curato. Per esempio c'erano molti romanzi letti alla radio, programmi per bambini, c'era un corso d'inglese, il teatro di rivista e teatro di varietà, quindi insomma c'erano, non per niente c'erano, erano accorsi molte attrici e attori. C'era un'orchestra radiofonica che per una volta finalmente suonava il jazz. Anche qua il jazz non attraverso i dischi della Vittoria, ma attraverso... ha suonato in diretta. Sì. E questo a me mi ha abbastanza colpito, perché ti dà la dimensione che cosa volesse dire in quel momento storico sentirsi in un paese libero, in qualche modo, comunque in un momento di liberazione in cui ti riprendi lo spazio non soltanto politico, ma anche culturale. Del resto, le due cose vanno a braccetto. Sì, ecco. Abbastanza, sì. Quindi, mano a mano che gli alleati avanzano, come si diceva, vengono liberate le altre radio EIR, quindi da Palermo si arriva a Bari, Radio Napoli, Radio Roma e Radio Firenze. E, i programmi qui, una cosa buffa, perché Radio Bari per diverso tempo è rimasta la radio principale che veniva ascoltata, e siccome era una delle più, come abbiamo visto, che andava più lontano, era quella che rimandava i programmi di Radio Londra, eccetera. Quindi all'inizio dicevamo che Radio Londra era difficile da ascoltare. Radio Londra veniva ascoltata in realtà tramite Radio Bari, cioè te ascoltavi Radio Bari e quindi ascoltavi Radio Londra. Ma qui ci teniamo a dirlo, in questo contesto del Ponte Radio, queste varie radio liberate si erano in una certa maniera federate tra di loro, e succedeva che i programmi di Radio Bari, che è, come dicevamo, una di quelle che aveva il palinsesto più ricco, questi programmi venivano registrati su dei dischi che erano dei dischi di vetro, tra l'altro, il che lo rende un dettaglio ancora più affascinante, e venivano trasportati in motocicletta alle varie altre radio. Cosa che, scusate, rende ancora più affascinante. Allora, ridiciamo. E io vorrei anche che avesse tipo radio liberate che si passano trasmissioni sui dischi di vetro trasportati in motocicletta, scappando da guardie fasciste. Cioè, mentre gli sparano addosso e bombardano. Cioè, più di così cosa vogliamo? Sì, tra l'altro io mi voglio immaginare queste persone sulle motociclette con, non lo so, gli occhialoni, l'aviatore. Senza casco. Senza casco, cioè, la sciarpa al collo, certo, vabbè, sì. Niente. E, no, questo per dire che questo era il modo con cui lo stesso programma veniva rimpallato tra varie radio e città, ovvero il Ponte Radio, cioè di base questo era il Ponte Radio nel 44. Sì. Quindi eravamo appunto, sì, saliamo, stiamo liberando le varie radio e il territorio italiano. Arriviamo a Radio Firenze, che ora voi direte, vabbè, sì, perché Radio Wombat e Radio Fiorentina adesso ci fanno due palle così su Radio Firenze. No, non è per bieco campanilismo, ma perché effettivamente Radio Firenze ebbe un'importanza, soprattutto perché lo sentiremo, abbiamo delle registrazioni anche qua che ci piace farvi ascoltare. Anche questa è una radio dell'EIAR inaugurata ufficialmente nel 32, anche lei, e diciamo che aveva varie stazioni, ne aveva trasmissive. Una, è buffo raccontarvi l'aneddoto, perché praticamente fu inaugurata dal regime in pompa magna nel 31, una mega, mega stazione, un mega impianto con due piloni altissimi, praticamente casca subito, cioè tipo il giorno dopo boom, crolla, e questo secondo me è una cosa che deve essere stata particolarmente ilare. E quindi niente, la ritirano su, una grossa figuraccia evidentemente, la ritirano su e piano piano si formano praticamente due impianti, e alla fine della guerra, due giorni dopo l'armistizio, cioè alla fine della guerra, prima dell'armistizio, al momento dell'armistizio, i tedeschi occupano questo impianto di trasmissione di Radio Firenze, e quando iniziano a ritirarsi lo smontano questo impianto, che era di 100 kW, quindi ancora più grande di quello di Radio Bari, e lo portano via. Qui l'importanza strategica era verso la linea gotica, chiaramente, non tanto per i paesi da colonizzare, ma verso su, andando verso la linea gotica. Smontano l'impianto, lo portano via e distruggono in parte il trasmettitore meno potente, un altro lasciano e lasciano soprattutto minato il trasmettitore. Anche qui ci fa capire quanto gli interessava. Però che c'era un altro trasmettitore in un impianto più piccolo della Radio Firenze che passa inosservato, e praticamente nel 44, quando Firenze era già stata liberata, gli alleati iniziano a irradiare i loro programmi da un altro apparato ancora con un loro impianto, e invece in questo impianto passato inosservato ai tedeschi arrivano gli antifascisti, arrivano i tecnici di Radio Firenze riescono a rimettere in piedi l'impianto e riprendono a trasmettere nel settembre del 44. Un impianto molto più piccolo, ha solo 2 kilowatt, quindi insomma si trasmette più in maniera un po' più, non si arriva tanto lontano. Però perché non è, l'importanza di Radio Firenze non è tanto nel quanto riusciva ad arrivare oltre, ma è il fatto più che altro che c'erano alcuni tecnici di Radio Firenze, in particolare questo giornalista e scrittore che si chiamava Armando Gomez, un reporter Victor De Santis, e un operatore Franco Rossi e un altro tecnico Alinari. E queste quattro persone iniziano ad aggirarsi nel momento della liberazione, quindi quando ancora non avevano la radio, perché come abbiamo visto è stata liberata dopo. Al momento la città di Firenze è stata liberata nell'arco di diversi giorni, con grossi combattimenti molto sanguinosi, i cecchini e fascisti nel centro di Firenze hanno fatto moltissime morti tra la popolazione. È stata una battaglia molto grossa e molto sanguinosa. Ecco, in questo contesto dove tra bombardamenti, tedeschi che minano e fanno saltare i ponti sull'Arno, macerie e combattimenti e spari, queste quattro persone di Radio Firenze intuiscono, hanno un'intuizione, e quando nessuno prima di allora lo aveva fatto, perché non era una roba che si usava a fare, intuiscono che è importante documentare quello che stava succedendo e decidono di provare a registrare l'audio di quello che stava succedendo. Ora, non immaginatevi ovviamente il registratorino portatile, perché al tempo le apparecchiature audio erano enormi. Di base un calesse. Sì, era di un carro. No, letteralmente, immaginate un carro che si portavano, sì, dietro. Era proprio un carro grosso con sopra delle macchinari, dei microfoni enormi. Quindi era anche difficile passare inosservati, insomma, e poi, come dire, i giornalisti di guerra al tempo non esistevano, c'erano i militari al massimo che documentavano insieme, però anche difesi dalle forze armate. Loro invece, questi quattro sgarrupati, che io me li immagino proprio presi dall'entusiasmo, iniziano a raggirarsi per le vie di Firenze, letteralmente tra le macerie e in mezzo alle bombe, per documentare quello che stava succedendo. 10 anni dopo, incredibilmente non muoiono, non vengono ammazzati. 10 anni dopo, Gomez stesso riprende questo materiale accumulato, che era stato di fatto chiuso in cantina per 10 anni, e ne fa un documentario, un radiodocumentario, che di fatto è forse il primo radiodocumentario, almeno italiano, della storia della radio. E almeno di esplicito intento, cioè era volutamente proprio un racconto fatto da delle registrazioni, perché di nuovo queste registrazioni che poi sentiremo tra poco sono state fatte non per essere mandate, per essere trasmesse da lì a, cioè il pomeriggio, erano, sì, proprio registriamo, archivio, e vediamo cosa succede. Esatto, e questa era una roba veramente nuova effettivamente. Io, sì, penso che anche registrazioni in presa diretta così, boh, probabilmente era una roba molto pioneristica, ecco. Ma al di là dell'aspetto tecnico, è molto bello vedere l'intento archivistico, cioè di persone che si rendono conto che questa roba deve essere in qualche modo salvata. E quindi ora ci ascoltiamo un po' una raffica di questi piccoli video, che però sono tutti video molto, molto brevi, di pochi secondi, un minuto, due minuti al massimo, che però a noi fanno molta impressione, perché raccontano una Firenze sotto le bombe e sotto la guerra che boh, è come, come esserci dentro effettivamente, sì. Perché non è un racconto ponderato, meditato, è no, proprio il sono, suono di quel momento. Ci sono ad esempio, lo sentite breve di nuovo, anche delle forme dialettali, dei modi di dire che fanno da tappeto a quello che si ascolta, che sono teneramente realistiche, cioè ti immergono in quella dimensione, e proprio perché magari sono cose che diremmo noi a Firenze normalmente. Sì. Quindi sì. Era, quindi vi iniziamo a far ascoltare questo, che è un bombardamento di fatto, esattamente di quei giorni. Questo invece è raccolto, un audio raccolto all'indomani, proprio il giorno dopo, all'indomani di quando è stato fatto saltare Ponte Santa Trinita. Come si sa, i ponti di Firenze sono stati fatti saltare tutti tranne Ponte Vecchio, e Ponte Santa Trinita era un ponte a cui i fiorentini erano particolarmente affezionati. E qui si sente, a un certo punto viene detto che ci avevano promesso che non sarebbe successo, perché effettivamente avevano i tedeschi, pare che avessero detto, e i fascisti avessero detto che i ponti li risparmiavano, soprattutto quelli di un certo valore artistico, e non andò così, e questo è il giorno dopo. Quella scaletta lassù, come sapete, questi negozi nessuno rivolgeva nulla. Ma perché vuole, nessuno prevedeva una cosa. No, perché ne andarono anche il comando tedesco a domandarmi se proprio dovevano sgomberare, vero, se dovevano portare via la roba. Oh, niente, ma che gli rassicurarono proprio che andiamo, signori, via, circolatevi, via, andiamo, se le mine vi via, del pericoloso. Andiamo, signori, per piacere, via, passare, perché è pericoloso che sono le mine, via. E continuiamo questa piccola carrellata con delle interviste raccolte per strada, delle persone che portano le notizie da zone diverse della città, e combattimenti in città appunto durante quei giorni. Ripeto, erano i giorni in cui Firenze stava essendo liberata, quindi c'erano combattimenti ovunque. Di notte vennero con le macchine, si aveva una bottega di alimentari, si doveva fare il pane per la popolazione, ci sapeva da dare. Ci presero tutti, ci presero un negozio, ci misero fuori e ci portarono a dormire in un'altra abitazione. Dice, venire a dormire in altra casa, qui non potete stare civili, insomma ci portarono via e io venne a rifugiarmi qua all'ospedale. Perché il figliolo li aveva a Firenze, rimase qui con la moglie. Dopo 10 giorni la mia moglie mi va a Firenze e non potevo più ritornare qua perché non lasciavano passare. Che sono stato una ventina di giorni mezzo morto, a febbre, eccetera. Mi sono ricoverato all'ospedale stamattina, sono partito, sono andato a trovare la famiglia, ho ritrovato tutti. Ho una felicità di contentezza addosso, non posso nemmeno parlare perché sono anche fioco. Oh, reverendo, come ha fatto a passare? Ho preso una bandiera bianca con una croce rossa e sono venuto così, in mano di Dio. E come si fa? C'è pericolo di passare? Tirano? Per ora c'è ancora pericolo. Fino a ieri era impossibile passare addirittura. Oggi un pochino si passa. Tedeschi o franchi tiratori? Chi lo sa, si vede anche qualche tedesco certissimamente. Ma si sente colpi di mitragliatrice oppure colpi solo picchi rigolato? Colpi di mitragliatrice, bombe a mano e anche un cannoncino mortaio. Come state per l'acqua? Per l'acqua ci arrangiamo con i pozzi di fortuna. Acqua non bevibile che si cerca di bollire per renderla un po' migliore. Pane? Per il pane? Per il pane da 5 giorni non abbiamo avuto più neppure il grano come avevamo prima. La gente è tutta chiusa nei rifugi, oppure nei terreni delle case. E non si può neppure mettere fuori il naso dalla finestra che subito si parano addosso. Se voi venite a prenderlo, io dal comune ve lo faccio dare. La difficoltà è venirci. Io penso che l'unica cosa è di prendere una bandierona bianca, mettere la gente tutta in processione e venire qua giù a prendere il parroco. Guardi che il parroco di San Gervasio fa già dei convogli. E passa il ponte del Pino dove tirano ugualmente. E fa convogli di donne. L'unica cosa è questa. Poi laggiù siamo addirittura fuori del mondo. Da parecchi giorni non sappiamo più che cosa avviene. Per esempio, fino a stamani non si sapeva che il centro era occupato dagli inglesi. Si vociferava, ma non si sapeva affatto. Da stamani è riuscita a venire una donna e ce l'ha portato, ma non come certo. E quindi stasera me ne sono accertato. Potete corrispondere con la zona oltre il ponte, oltre il Cavatria? Fino ad oggi non siamo riusciti. Ad ogni modo cercate di prendere contatto, se è possibile. Magari mandando una donna, oppure valendovi di suore o di medici. Lì ci deve essere ancora qualche medico. I medici in genere li fanno passare. Quindi vedete di prendere contatto e se c'hanno qualche bisogno faccelo sapere. E questo invece è l'audio brevissimo dei partigiani che entrano a Firenze. Attenzione ai nari che c'è. Registri. Il bottino lì alla finestra. Vedi che il bottino lì gli spara, anche là altre. Lì all'angolo, eh? Sì, all'angolo, lì all'angolo. Buono. Allora sai che facciamo? Alcuni patrioti attraversano rapidamente la strada e la piazza. È caduto un caricatore. Altri arrivano più presso a noi. Senti, non si può buttare via, fa più. Madonna. Non so se mi fa incantare l'accidente. Un moschetto si è incantato. Un patriota l'ha gettato qua per terra e ha impugnato l'unica arma che gli è rimasta, la pistola. Appostati presso la colonna, si preparano a tirare. Un altro arriva presso di noi correndo. Buono, ha detto. È una vera caccia all'uomo. Colpo per colpo. Ora si sta tentando un accerchiamento. Dai, semina. Va al passeggero della notte, la solita. Arriva in questo momento uno stranissimo tipo in bicicletta. È un partigiano con una camicetta di seta amaranto e in testa un cappello di paglia con uno strano pennacchio rosso. Tiene alla cintola una bomba a mano di tipo tedesco e un bastoncino di bambù. Ora sparano di nuovo. E questo, gli ultimi due che vi facciamo sentire, l'ultimo via in realtà, perché non possiamo non farvelo ascoltare, sono i nazisti che si ritirano finalmente da Firenze e l'audio che ci fa sentire questo è l'audio dei passi della marcia dei nazisti che se ne vanno. Radio Firenze. Questa è la voce di Firenze liberata. Alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, buongiorno. Che comunque, appunto, a me piace sempre sottolineare che dice alle nostre ascoltatrici, ai nostri ascoltatori, che adesso manco Rai adesso, si sì, dice, nel 2025. Vabbè. Questa era Radio Firenze e siamo di corsa come sempre, potremo parlare per altre 700 ore e allora di corsa vi parliamo di Radio Cora. Sì, allora Cora sta per abbreviazione proprio di Commissione Radio e inizia nel settembre del 44 ed è fondamentalmente un'iniziativa legata al Partito d'Azione, anche questa. 43, scusa. Sì, scusa, 43. Ne facevano parte Luigi Morandi, che era un tecnico, uno studente di ingegneria, Italo Piccagli, che era invece un tecnico militare dell'aeronautica, e Carlo Ballario, che era un altro invece tecnico sempre dell'università di fisica. Sì, diciamo che loro avevano avuto, cioè sostanzialmente era un progetto anche qua del Partito d'Azione che aveva intuito l'importanza di provare a mettere su una radio. Questa volta la radio non aveva tanto l'intento di comunicare con le persone in tutte le case, ma di parlare con gli alleati e con le altre formazioni partigiane. Questo era l'intento di Radio Cora. E di base si fecero mandare, consegnare un trasmettitore dagli alleati e fu attraverso questo che riuscirono poi a tirare su una radio vera e propria. Ci sarebbe da parlare per 7 ore, però le avventure, le vicissitudini per procurarsi questo apparecchio non furono banali, e anche trovare persone che fossero in grado di costruirlo, Di farlo di farlo funzionare, funzionare. certo, sì. Tant'è che alla fine riuscirono a farlo e riuscirono a mettere in piedi questa trasmissione. Il famoso messaggio convenzionale fu l'Arno scorre a Firenze, che era il messaggio dell'avvenuto contatto, ovvero ci siamo, Radio Cora inizia a Il trasmettere. piccione nella stalla, ecco, era Esatto. quello il messaggio. Sì. E che poi venne ritrasmesso dagli alleati sulla frequenza di Radio Bari. Quindi da Radio Bari prendono e dicono: ok, sappiate tutti che Radio Cora è attiva. Questa era una radio estremamente clandestina, mentre le altre trasmettevano da territori già liberati. Qui no, qui si trattava di un momento in cui ancora Firenze era sotto dominio tedesco e quindi era molto pericoloso trasmettere e fare questo tipo di trasmissioni. Quindi il lavoro di queste persone era estremamente segreto, estremamente clandestino. Quello che successe è che però ci riuscirono. E una delle cose più importanti che ci preme sottolineare fu un successo militare molto importante, perché nel maggio del 44 Gilda La Rocca, che era una delle collaboratrici di Radio Cora, una delle attiviste, potremmo chiamare adesso, di Radio Cora, a un certo punto si trova a Firenze. Lei era una staffetta, tra l'altro era una di quelle che portava in giro, perché loro dovevano spostare continuamente il trasmettitore per evitare di venire scoperti, ed era lei che si nascondeva, non si sa bene come, questo trasmettitore da qualche parte e lo portava in giro. E lei, è proprio lei che a un certo punto vede passare un comando tedesco, insomma delle truppe tedesche che vanno verso sud, vanno verso Siena, lei dice, verso il Chianti sostanzialmente, quindi verso Roma. Lei ha l'intuizione che queste truppe erano un po' tante, erano troppe. Lei aveva visto sostanzialmente la divisione Göring, che da Firenze veniva spostata verso il fronte meridionale, ovvero verso Roma, dove in quel momento si stavano svolgendo i combattimenti per la liberazione di Roma. Gilda La Rocca trasmette l'informazione ai suoi compagni, che prendono una decisione anche piuttosto importante, ovvero aspettano di comunicare agli alleati questa informazione di dove era in quel momento la divisione Göring, e aspettano che la divisione Göring arrivi in un posto non abitato, cioè che si sposti dal centro abitato ed arrivi in pieno campo, sostanzialmente in piena campagna, perché sapevano perfettamente che gli alleati non si facevano problemi a bombardare qualsiasi centro abitato pur di centrare l'obiettivo. Quindi loro aspettano. E gli alleati, appena ricevuta l'informazione, bombardano la divisione Göring, che viene spazzata via e non riesce quindi a portare gli aiuti a Roma. Questa è una cosa che ci teniamo a sottolineare perché è abbastanza centrale nella poi storia di quello che è successo. Probabilmente Roma non sarebbe stata liberata così facilmente se fosse arrivata la divisione Göring. Poi che succede? velocemente, però quello che succede è che gli alleati pensano bene di registrare, cioè di ringraziare pubblicamente Radio Cora per il lavoro fatto, per questa grande informazione che gli avevano fatto. Ve lo faccio ascoltare veramente velocemente, sono 13 secondi, ma è importante, credo. Eccovi un messaggio speciale di ringraziamento ai patrioti degli Appennini per le preziose informazioni dateci circa le difese tedesche della linea dei Goti. Una menzione particolare va ai patrioti della zona di Firenze. Ecco, questa fu la cosa che fece ammascare i tedeschi e i fascisti, che già lo sapevano, avevano il sospetto che ci fosse Radio Cora, e così li scoprirono. E fu così che il 7 giugno del 44 i nazisti individuano, probabilmente si dice attraverso anche una soffiata, non si sa, di qualche vicino, di fatto individuano la sede della radio a Firenze in Piazza d'Azeglio, irrompono durante una trasmissione. C'è una sparatoria, Morandi, che stava ai microfoni, viene sorpreso mentre stava parlando, ha comunque la prontezza di sottrarre una pistola, rubare una pistola a un soldato tedesco, lo ferisce a morte e poi però viene colpito e viene ucciso. E morirà 2 giorni in ospedale. In realtà in quel momento vengono arrestati tutti quelli che erano presenti: Enrico Bocci, Carlo Campolmi, Giuseppe Cusmano e Franco Girardini, e successivamente viene arrestata anche Gilda La Rocca, Piccagli e altri. Per un caso altri di Radio Cora si salvano, comunque tutti Piccagli, 4 paracadutisti, un altro partigiano cecoslovacco in realtà che non c'entrava con Radio Cora, vengono fucilati nei boschi di Cercina il 12 giugno del 44. Cercina è sopra Firenze, e insieme a loro anche altri partigiani, tra cui Anna Maria Enriquez Agnoletti. E altre persone, tra cui l'avvocato Enrico Bocci, verrà fucilato dopo giorni di tortura, ma il suo corpo non è mai stato ritrovato. Tutti gli altri vengono mandati ai lager e vengono prima torturati a Villa Triste, che era la villa a Firenze dove venivano torturate le persone per giorni, spesso ci morivano. E Gilda La Rocca, prima di arrivare in Germania durante la deportazione, riesce incredibilmente a scappare e quindi si salva. E questa è velocissimamente le vicende di Radio Cora, ecco. Ok, allora, purtroppo altrettanto velocemente ti rubo la parola e passo all'ultimissimo argomento che accenniamo e basta, che hai visto la presentazione in altre sedi, magari ne abbiamo parlato meglio. L'ultimo argomento quindi di cui volevamo parlare sono invece le radio riceventi nei campi di prigionia per gli internati militari italiani. Che appunto, collegandosi a quello che dicevamo prima, cioè ai furtarelli che venivano fatti in momenti di tensione o in momenti di necessità da parte di persone italiane di oggetti e di strumenti che poi saranno fondamentali per ricostruirle queste radio. Allora, nei campi di prigionia, questi campi di prigionia principalmente si trovavano in Germania ed erano solamente per militari, quindi anche per personale tecnico militare. La più famosa di queste radio che citiamo oggi è Radio Caterina. Tutte queste radio non avevano appunto nomi di donna o di compagne, che venivano usate un po' per depistare la tipologia di radio di cui si stava parlando, ed erano soltanto radio riceventi. La cosa che è particolarmente, principalmente tentavano di ricevere anche queste, Radio Londra o le sue declinazioni in varie lingue, però principalmente Radio Londra. E avevano questa caratteristica di essere autocostruite con mezzi che, dire di fortuna, è poco, perché andiamo da circuiti fatti con le mine delle matite, quindi dei lapis, la grafite, cuffie fatte appunto con le scatole vuote della barba, l'isolante fatto con la cera per capelli, le bobine rubate alle biciclette dei militari nazisti dei campi, oppure altre parti di filo fatte sfilando le trecce con cui si portava la luce, la corrente, scusate, alla lampadina in genere, l'unica lampadina delle stanze di internamento. Forse il dettaglio che sempre ci colpisce di più era l'antenna, perché se una radio possiamo ridurla all'osso come un'antenna, un accordatore e un'amplificazione, l'antenna, che era forse quella, l'oggetto che forse tutti riescono a individuare di una radio, in questo caso veniva fatto da una persona che con della stagnola tra i denti saliva sul letto e cercava di direzionare il suo corpo toccando la parte metallica del letto. Era un'antenna lui. Diventava una vera e propria antenna. Forse l'ultimissimo dettaglio di queste radio, di questa tipologia di radio, è che venivano di volta in volta costruite e smantellate, perché ovviamente non è che potevi tenere un oggetto del genere in bella vista nel campo, nella stanza di internamento, ma dovevano essere costantemente costruite e disassemblate, smantellate. Sì. Sì. Penso di averlo detto in tempo record, ahimè ci sarebbero anche in questo caso tantissimi dettagli, aneddoti, e che magari riusciremo a dirvi di persona in qualche contesto. Sì. Sì, perché davvero ce ne sarebbe moltissime. Con questo però vi salutiamo di corsa, come sempre a noi non bastano mai le 2 ore del Ponte Radio, siamo chiacchierone. Quindi vi salutiamo tutte e tutti, vi ringraziamo per l'ascolto e alla prossima. Ciao. Ciao.